5. Abbondanza di denaro. Per la cena seguente avevo preparato qualcosa di davvero irresistibile. Un preambolo di polpettine di miglio con ceci tritati e porri impanate e fritte. E a seguire un succulento ragù di verdure miste di stagione su un letto di polenta integrale. Di nuovo il vino era stato versato nel decanter per tempo affinché fosse della temperatura perfetta, un favoloso amarone della Valpolicella, denso e scuro. Rispetto alla sera precedente ero molto più ansiosa di ascoltare gli insegnamenti di colui che ormai consideravo il mio maestro, sebbene mi fossi comunque vestita con cura e non avessi trascurato di indossare biancheria adatta per ogni evenienza. Via via che trascorrevo del tempo con lui, mi sentivo sempre più attratta dal suo lato spirituale, sebbene non disdegnassi quello fisico, e non poteva essere diversamente, poiché lui era magnifico sotto ogni aspetto. Decisamente l'invenzione dell'orrendo e deforme maligno delle nostre tradizioni religiose era pura fantasia. Le informazioni che egli mi comunicava risuonavano in tutto il mio essere e le riconoscevo come se stessi tornando a casa dopo un lunghissimo viaggio. Ogni tassello andava a posto nella mia mente. Comprendevo il perché delle migliaia di domande che avevano accompagnato i primi 30 anni della mia vita. Come la sera prima, il mio ospite ed io mangiammo e bevemmo di gusto. Lo guardavo assaporare lentamente ogni boccone ed ero ipnotizzata dal sensuale movimento delle sue labbra scure. Ci fu perfino un momento in cui sembrò che si fosse aperto uno spiraglio nelle sue difese ed io tentai di approfittarne calamitando il mio piede verso il suo. Inarcò le sopracciglia e ritrasse il piede. Ma andiamo! Quando tentavo un approccio diretto si rivelava impacciato come un adolescente. Era questo il grande seduttore di povere donne indifese? Beh, chiunque lo avesse detto aveva decisamente preso un granchio. Dovevo essere meno irruenta se non volevo spaventarlo e farlo scappare, quindi finsi un inciampo e mi ritrassi. Lui fece finta di niente, prese il bicchiere e la mia mano e si avvicinò al caminetto. Mi fece sedere accanto a sé e cominciò a raccontare. La storia dell'economia, che poi è la storia dell'uomo, si può dividere in due grandi movimenti. Uno è il capitalismo, che concentra la ricchezza nelle mani di pochi, scontentando la massa che si deve accontentare di sopravvivere, e l'altro è il comunismo, dove apparentemente le ricchezze sono distribuite equamente tra tutti, ma in sostanza priva tutti del benessere e dell'abbondanza che ogni essere vivente potrebbe sperimentare, perché è un regime focalizzato sulla privazione. Un'uguaglianza forzosa che impone la rinuncia a ogni tipo di accumulazione materiale, ma senza offrire qualcosa per cui valga la pena rinunciare. Una via spirituale. È solo in nome della spiritualità che gli esseri umani rinunciano volentieri e spontaneamente alla ricchezza materiale, ma il comunismo si basa sull'assunto dell'ateismo e quindi toglie solo, senza offrire nulla in cambio. Infatti, notai, entrambi i movimenti scontentano la maggioranza dell'umanità. Sicuramente manca la tensione verso qualcosa di più grande della ricchezza materiale. Esatto, confermò, manca la tensione mistica. L'assenza di spiritualità è la causa prima del ricorso al materialismo come valore e del monumentale sforzo di accumulazione del capitale. L'assenza di spiritualità è responsabile tanto della mancanza di motivazione a condividere quanto della spontanea rinuncia ad accumulare. Quando un essere umano crede solo nella materia, non ha nessun motivo per rinunciarvi spontaneamente e con gioia. Nel caso del comunismo, poi, proseguì, l'abolizione della proprietà privata non è una libera scelta, ma una imposizione governativa sostenuta da minacce e sanzioni. In entrambi i casi, l'economia si risolve nella concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, siano essi latifondisti, industriali, militari o banchieri, e il popolo viene livellato verso il basso, emozionalmente, culturalmente ed economicamente. Ma i kibbutz in Israele, chiesi, non sono esperimenti di condivisione in comunità? Eh sì, ma sono, o almeno sono stati, tenuti insieme dal collante della fede, cioè l'identità spirituale del popolo ebraico, Però al momento, anche all'interno dei kibbutz, almeno in quelli più ricchi, le nuove generazioni che hanno perso la spinta spirituale si stanno orientando verso il consumismo e l'accumulazione. Oh, commentai delusa perché il quadro che mi aveva prospettato mi risuonava e mi anticipava qualcosa di familiare. Beve un sorso di vino e ne osservò in trasparenza il colore rubino illuminato dal fuoco del caminetto. Parliamo ora del denaro, che oggi definite in molti modi, frutto del lavoro, valore del lavoro, corrispettivo, remunerazione e ora anche energia in ambito New Age. E non lo è? No, commentò secco. Osserviamo più da vicino cos'è il denaro. Esso è la garanzia scritta che chi ha eseguito un certo lavoro producendo un certo bene o servizio al quale viene attribuito un certo valore, diciamo X, potrà in un tempo differito ottenere, grazie a quel pezzo di carta, uno o più beni e servizi dello stesso valore X prodotti da qualcun altro. Il pezzo di carta rispondente al concetto di denaro rappresenta la garanzia che io potrò riscuotere, in qualunque tempo e spazio futuro, il corrispondente del mio lavoro, in modo che esso non venga dimenticato. Quindi, se ho capito bene, ricapitolai, tu dici che il denaro è una garanzia, è ciò che ci rende sicuri che il nostro diritto non si perda o non venga negato. Esatto. Ha bisogno di una garanzia chi teme che nel tempo il proprio lavoro venga dimenticato. In natura, intuì, un fiore non paga nulla, né chiede di essere pagato per il fatto che cresce. Riceve gratuitamente il nutrimento dalla terra e gratuitamente dona agli animali erbivori il suo gambo, le sue foglie come nutrimento. E poi dona il polline, i semi per la nascita di altri fiori, e questo polline viene trasportato gratuitamente dalle zampe degli insetti che se ne sono nutriti, i semi dal vento, o attraverso le feci degli erbivori, e tutto avviene in forma totalmente gratuita e perfettamente armoniosa. La geniale, perfetta economia della natura, confermò, dove ogni essere vivente è soddisfatto e vive al meglio la propria esistenza, ottimizzando i suoi talenti, si chiama ecosistema e non ha bisogno di denaro come garanzia. Nell'ecosistema, cioè in un sistema pulito senza denaro, non esistono ingiustizie, poiché ogni creatura tiene per sé solo ciò che le serve, lasciando il resto agli altri, senza accumulazione e senza spreco. Nel sistema umano, invece, constatai amaramente, è proprio l'accumulazione la causa prima di ogni ingiustizia. Quante risorse vengono sottratte all'agricoltura e al pascolo e destinate alla produzione di beni inutili e inquinanti. E l'alimentazione? Viene prodotta artificialmente, usando dosi sempre più consistenti di chimica, sia nella produzione che nella lavorazione. La quantità di cibo ottenuta a scapito della qualità. Riempire pance e frigoriferi, di cibo morto e inutile per zittire bisogni emozionali, paure, solitudine. Una sistematica sovralimentazione che porta malattie, brutalità e impoverimento continuo. Eh sì. Disse lui. Siete proprio stupidi riguardo alla vostra alimentazione. Non guardarmi con quella faccia, eh? Io mangio biologico da anni e faccio attività fisica tutti i giorni, quindi togliti quella espressione di muto rimprovero. Scusa. Scuse accettate, prosegui. Tutto questo, continuò lui, rappresenta l'infernale logica del consumismo. Detto da lui, l'aggettivo infernale suonava strano. E dell'accumulazione, anche di cibo. Anche le date di scadenza su alimenti e farmaci sono spesso false. Servono a garantire l'immissione sul mercato di beni sempre freschi, tra virgolette, che vi fanno buttare quelli vecchi, sempre tra virgolette, che in realtà sono ancora buoni, solo per garantire la continuità delle catene produttive e dei posti di lavoro. Bene, finora non mi hai detto nulla che già non sapessi, lo interruppi petulante. Dov'è la rivelazione di questa sera? Eccoti servita, disse lui dopo una pausa. Il denaro è il prodotto della paura. Mi alzai per mettere altra legna sul fuoco e ci osservammo l'un l'altra di nascosto da dietro le mie spalle. Lui per vedere l'effetto delle sue parole e io, beh, per scoprire se il mio sporgermi davanti gli provocasse una qualche reazione. Mi sbagliavo o aveva impercettibilmente deglutito? Preferii rimanere nel dubbio e tornai a sedermi, forse con eccessiva disinvoltura. Il denaro? È il prodotto della paura? Ripetei guardandolo fisso negli occhi e notando che aveva recuperato la padronanza di sé. Ricorda che la parola diavolo viene dal greco antico diaballo e significa separo. Una cellula del corpo umano, riprese, non chiede denaro come corrispettivo del suo lavoro. Essa lavora per il benessere generale del corpo, ovvero della comunità in cui vive, dal quale dipende il benessere della cellula stessa. In una comunità ogni membro lavora con l'unica finalità di collaborare al benessere generale, sapendo che è da questo che dipende il suo benessere personale. Ma se invece un essere vivente non si sente parte di una comunità, bensì si sente separato e solo nel combattimento per la sopravvivenza, allora esso avrà paura di non ricevere ciò di cui ha bisogno nel momento in cui il bisogno si manifesta, poiché stenterà a credere che ci sia chi lavora anche per il suo benessere oltre che per il proprio. Il denaro è figlio della paura, sussurrai lentamente, della paura di essere soli. Pensaci, è lampante. Quando un essere si sente separato dal tutto, prova il bisogno di dimostrare senza ombra di dubbio, poiché non si aspetta alcuna buona fede da parte degli altri, che ha lavorato e prodotto e che pertanto ha diritto in cambio a godere del frutto del lavoro di qualcun altro, il cui valore sia equivalente. Questa dimostrazione, questa prova, la fornisce un pezzo di carta, il denaro, su cui è scritto il valore sia del lavoro eseguito sia di ciò che si può avere in cambio. In questo modo non si teme più che il proprio lavoro venga dimenticato o ignorato, poiché la garanzia della memoria è quel pezzo di carta che rimarrà nel tempo. Lo sai, scripta manent. Parlate latino laggiù? Punzecchiai. No, ci divoriamo a vicenda quando non siamo impegnati a frustare a fare pezzi dannati, rispose a tono. Dai, su, cercavo solo di alleggerire. Stai quindi dicendo che la coscienza centrata sulla personalità egoica lavora per il soddisfacimento del suo esclusivo personale benessere, mentre la coscienza centrata sulla collettività lavora per il benessere generale, poiché sa che da quello dipende anche il suo benessere personale. Bravissima! Sapevo di aver scelto bene, disse scoccandomi un'occhiata che scatenò un esercito di formichine lungo tutta la mia schiena. Ora, la questione si va un po' complicando. Se accettiamo che il denaro sia frutto della paura, che il proprio lavoro venga dimenticato, ne consegue che maggiore è il tempo impiegato per ottenere un certo bene, maggiore sarà il suo valore, diciamo, in denaro. Quindi il valore in denaro sarà diverso a seconda dei beni. E se io ho bisogno di un bene che vale 1.000, ma produco beni che valgono 1, dovrò aspettare di averne prodotti e venduti 1.000 per soddisfare il mio bisogno, giusto? E questo è l'inizio dell'accumulazione. Significa che con il sistema del denaro il soddisfacimento di ogni bisogno deve essere sempre riferito al tempo in cui potrò pagarlo e mai al tempo in cui il bisogno si manifesta. Ti risuona? Altro che la degenerazione dell'accumulazione è il capitalismo, che riveste l'accumulazione di denaro o beni di un significato anche emozionale, cioè il valore dell'individuo. Quanto più un individuo possiede, tanto più è bravo. Quindi accumulare diventa il modo che utilizzo per dimostrare a tutti quanto sono bravo, perché ho paura che altrimenti il mio valore non venga riconosciuto. Di nuovo una paura. Ma è assurdo! Eppure, se ci pensi, è così. Nella vostra società, chi non guadagna denaro è considerato fallito, anche se ha doti meravigliose. Magari la generosità, la creatività, la dolcezza, la pazienza. Siete la società della competizione, dell'aggressività, dell'apparenza, tutti frutti della paura, per inciso. Dalla paura poi discende un'altra aberrazione, il consumismo. La paura di rimanere senza ciò di cui ho bisogno fa sì che io me lo procuri in grandi quantità e che diventi schiavo del suo consumo. Mostrare a tutti quanti beni sono in grado di comprare col mio lavoro mi fa sentire bravo, rispettato e accettato dalla società. Il consumismo è una tossicodipendenza, né più né meno. E quindi in una comunità spirituale, chiamiamola, riassunsi, non vi sarebbe paura, ma solo coscienza del bene comune? Mi pare di capire che la spiritualità è il miglior antidoto alla paura. Esatto! In una comunità spirituale ognuno lavora per il bene comune, che è anche il suo. E lo fa al meglio delle sue possibilità, senza badare a cosa fanno gli altri. E se tutti i membri della comunità lavorano al meglio delle loro possibilità, la comunità sarà sana, ricca e felice, e questa sarà la miglior prova del valore di ciascuno. Quindi nessuno cercherà di lavorare al di sotto delle sue possibilità, poiché questo si tradurrà immediatamente in uno squilibrio che danneggerà tutti, compreso lui. Quindi, puntualizzai, se il cattivo lavoro di un membro si traduce in perdita per tutta la comunità, è vero anche il contrario, la perdita della comunità si traduce in perdita di tutti i suoi membri. E quando qualcuno si ammala? Beh, ho detto lavorare al meglio delle proprie possibilità, non al di sopra. Se qualcuno si ammala, verrà amorevolmente e gratuitamente curato da chi nella comunità si occupa di guarigione. Ma come si può essere sicuri che ciascuno lavori al meglio delle sue possibilità, come dici tu, e che nessuno faccia il furbo? In un modo semplicissimo, poiché nelle comunità spirituali ognuno fa ciò per cui si sente portato naturalmente. Ognuno sceglie un'attività che gli è congeniale e la svolge con amore, gratificazione e spirito di servizio. Chi costruisce case lo farà perché gli piace. E gli è congeniale, così come chi coltiva l'orto o cuce o cucina. Quando un'attività vi piace e la svolgete volentieri al vostro meglio, senza guardare l'orologio, siete felici. Ogni attività scelta sarà quella necessaria per il proprio piano di evoluzione e risveglio di coscienza. Così tutti i beni e i servizi necessari alla vita dei membri della comunità circoleranno liberamente e altrettanto liberamente saranno accessibili, senza scambio. Senza denaro, senza attese. Non ci saranno più persone che svolgono male e malvolentieri il proprio lavoro solo per arrivare, come dite voi, a fine mese. È la mancanza di vocazione che provoca l'abbassamento della qualità del lavoro dovuto allo scarso entusiasmo. Nella società di cui ti parlo, ogni bisogno può essere soddisfatto in tempo reale. Senza necessità di circolazione di denaro, poiché tutti svolgono il loro lavoro con passione e motivazione. E questo è l'unico compenso ammissibile, e tutti sanno che avranno accesso a qualunque bene o servizio in ogni momento, perché tutti lavorano per il benessere della comunità. Beh, constatai, certo che in una società così il denaro non ha più senso di esistere. Immagino che lavorare in questo modo crei un ritorno di energia positiva per tutti e quindi una buona salute fisica ed emozionale. Ma come si fa per arrivare a questa consapevolezza? Con la meditazione, fu l'incredibile risposta. Stai scherzando? Per niente, rifletti. Lo stato d'animo indotto dalla meditazione è quello di una totale fusione con il tutto e un senso di benessere e beatitudine. Lo hai provato tu stessa. Perciò, se la paura che nutre il bisogno di denaro è generata dall'illusione di essere separati dall'esistenza, la meditazione, creando un senso di fusione con il tutto, guarisce quella paura. Quando ci si sente parte di un grande essere intelligente, armonioso e perfetto, all'istante tutte le paure e i dubbi si sciolgono. Quindi la fine del consumismo e dell'accumulazione è legata alla nascita di una società, comunità spirituale basata sull'amorevole utilizzo delle risorse, senza sprechi e nella misura in cui realmente servono? La coscienza si deve spostare dall'individualità egoica all'organismo ecosistema? Esattamente. Che bisogno hai di accumulare prodotti che invecchieranno in una casa magazzino se sai di poterne avere di nuovi e freschi in ogni momento in cui ne hai bisogno realmente? Ma allora è questa la radice dell'ecologia? Sì, mia cara, mi sorrise Sornione. La produzione di beni e servizi nella giusta quantità e di altissima qualità. Prodotti ottimi, artigianali, la fine del sistema industriale, perché avere armadi pieni di abiti tutti uguali, quando se ne possono avere pochi, meravigliosi e personalizzati, è un fallimento. Il grande inquinamento, specialmente nel settore alimentare, è provocato dalla produzione di più beni di quanti ne servano. Merce di scarsa qualità, creata esclusivamente per essere venduta sempre di più con la logica degenerata del 3x2, ossia, per avere un prodotto che credi di non pagare, ne compri due di cui non hai bisogno. Sì, questo lo so, ed è il motivo per cui io mangio biologico. E per cui anche le cene che ti offro sono biologiche, non dimenticarlo. La gente continua a scegliere la quantità piuttosto che la qualità, e in questo modo riempie il frigorifero di alimenti morti, ottenuti con la violenza sulla terra e con il furto ad altre popolazioni. Tanta gente muore di fame a causa delle leggi di mercato e degli accordi internazionali, è l'argomento della mia tesi di laurea, figurati. Lo so. È per questo che ne parlo con te. Proprio perché studi l'economia mostruosa creata per drogare l'umanità e quindi comprendi il succo del mio discorso. Mi chiedo continuamente cosa succederebbe se tutto il cibo in surplus potesse essere donato ai paesi dove si muore di fame, invece di distruggerlo per mantenere alti i prezzi. Già, nel sistema di cui ti sto parlando, chiamiamolo, economico, con la K. In tutti i settori del lavoro sarà possibile il ritorno a produzioni artigianali con materie prime naturali. I pezzi prodotti saranno pochi, ma perfetti e sufficienti per le reali necessità della comunità, e questo si combinerà con la fine del consumismo. Ognuno sarà libero di operare nel settore per cui si sente portato, che sia arte, artigianato, agricoltura, guarigione, edilizia, musica o altro. Ecologia della mente, quindi, poiché non esisterà più depressione, né tristezza, né stress, e neanche la malattia. Ma come fare, dunque, per cominciare concretamente a mettere un seme di questa tua visione? L'unico modo di agire concretamente è quello di creare una forma pensiero nuova, che diventi via via sempre più reale con la pratica. In che senso reale? Intendo percepibile coi sensi fisici. Sappiamo tutti e due che la parola reale non significa nulla, che non esiste una cosa chiamata realtà, però esiste una densità delle forme pensiero che è possibile sperimentare coi sensi, in quanto la loro frequenza vibratoria è compatibile con essi. E questa la chiamiamo realtà. La realtà non è nient'altro che pensiero solidificato. E quindi, cambiando il pensiero della realtà, la convenzione che usate per definirla, cambierà anche la sua manifestazione volumetrica, densa, sperimentabile. Ah! Spiego. Grazie. Bisogna allenarsi a cambiare pensiero con la visualizzazione. Ecco. Ah, la visualizzazione, dunque, è un buon sistema, dissi alzandomi per andare a fare un caffè. Avevo bisogno urgente di una pausa. Mi massaggiai il collo e le spalle che erano indolenzite. Certo, si comincia con il rilassarsi profondamente nel fisico e nell'emozionale e poi si calmano i pensieri. Stop! Lo interruppi sorridendo. Pausa caffè? Dolcetti alle mandorle? Ricambiando il sorriso, ne prese uno dal piattino. Si alzò per stiracchiarsi e santa dea quant'era alto! Mi fece alzare e mi guidò verso la cucina, cingendomi le spalle con un braccio. Per quella sera Rinunciai alle mie intenzioni seduttive, benché avessi qualcosa in mente per il momento del commiato. Ero stanca, ma intuivo che la seduta sarebbe durata ancora un bel pezzo, perciò decisi di risparmiare le forze per comprendere ciò che mi spiegava. La promessa di aiutarlo a divulgare questa nuova visione era la mia unica arma per trattenerlo con me. Tornammo vicini al camino. La visualizzazione, dunque, dicevi. Eh? Ah, sì, si riscosse come da un pensiero, magari, speravo, simile al mio. E dunque si rilassa completamente il corpo, poi si immagina di scendere una scala di 21 gradini e, arrivati in fondo, di aprire una porta al di là della quale si trova un mondo pieno di luce, colore, allegria e gioia. L'Eden delle profezie. Una volta lì, si è liberi di gironzolare, di osservare, di assaggiare ciò che c'è a disposizione e di relazionarsi con gli esseri che vivono lì. E con il tempo e la pratica, la visione si arricchirà di dettagli fino a creare una vera e propria sinapsi, cambiando le nostre credenze sul mondo e quindi le nostre proiezioni mentali. Si può immaginare, riprese, un villaggio immerso nella natura dove tutti offrono i loro beni o servizi in forma totalmente gratuita. Cibo, massaggi, canti, prodotti di artigianato e tutto quanto si possa desiderare di sperimentare. Si può anche entrare negli alloggi e negli spazi comuni, che sono tutti creati con materiali naturali e rifiniti con perfezione artigianale. Si può anche immaginare di portare il proprio contributo, mettendo a disposizione gratuitamente la propria opera, il proprio lavoro. Tutti sono contenti di stare in quella comunità, poiché non esiste una di più felice, pacifica e prospera. E quando si è gironzolato abbastanza? Beh, si ritorna indietro, per la stessa porta e la stessa scala, fino a riportare la coscienza nel corpo fisico. In sostanza, vediamo, io artigiana produco, che so, ciotole di legno. Le porto al mercato e le espongo sul mio banco, lasciandole liberamente a disposizione di chi ne ha bisogno, giusto? Giusto. E nello stesso mercato io potrò servirmi di tutti gli altri beni e servizi a disposizione, semplicemente prendendoli dal banco o accordandomi con chi li fornisce, giusto? Giusto. Il tutto secondo la mia reale necessità e non di più. Ah, annuì soddisfatto. E i viaggi? Come ci sposteremo? I viaggi verranno effettuati lasciando il corpo, con la visualizzazione. Per quelli invece che richiederanno spostamento fisico, verranno utilizzati mezzi a energie non ricavate dal petrolio, in modo che la Terra possa un po' alla volta smaltire il carico di inquinamento attuale. E le comunicazioni? Gli incontri tra persone potranno avvenire a livello telepatico. La telepatia è uno dei vostri talenti, ma nessuno vi insegna a usarla. I contatti fisici tra persone avverranno solo quando lo si desidera veramente e si interruppe bruscamente come se si fosse reso conto di essere su un terreno pericoloso. Io ammiccai. Lui si voltò un attimo verso il fuoco e quando tornò a guardarmi era perfettamente padrone di se stesso. Le attività produttive, riprese, utilizzeranno solamente materie prime locali. Così gli enormi carichi di materie prime che attualmente si spostano da una parte all'altra del globo nell'economia industriale della produzione di massa, usando carburante a petrolio, non avranno più ragione di essere. Le materie prime verranno lavorate nei luoghi da cui provengono, e non solo per una questione ecologica, ma anche vibrazionale. Ogni bene che la Terra produce è adatto alla sua terra di origine, voi la chiamate biodinamica. Ma così sembrerebbe di tornare indietro. Sì, a un'economia senza miseria né infelicità, evviva! Ma non ti sembra che così tutti vorrebbero fare gli artisti e a nessuno verrebbe in mente di lavare i piatti o pulire verdure o vangare? Ti sbagli? Molti tra voi trovano rilassante il semplice lavoro manuale. Quelli che tu definisci artisti nel vostro mondo spesso hanno pochissimo talento e molta vanità e bisogno di riconoscimento. L'esibizionismo è infatti figlio della paura di non essere amato o riconosciuto. Nella società di cui ti parlo, la vanità non esiste più, è stata trascesa grazie alla coscienza comune. Io invece conosco un sacco di bancari e fiscalisti che vorrebbero fare i musicisti, guarda un po', ribattei scettica. Ma saranno liberi di farlo se ne avranno il talento. Tutte le professioni collegate al denaro, infatti, non esisteranno più e così tutti potranno coltivare il bisogno artistico che c'è naturalmente in ogni essere umano. L'arte non sarà più un business, ma un libero scambio come tutto il resto. Chiunque desideri suonare, cantare, dipingere, danzare, lo potrà fare liberamente e ogni angolo della terra dove si incontreranno chi vuole cantare o chi vuole ascoltare risuonerà di musica libera e gratis. Mi piace. Ho sempre desiderato lavorare per servire la comunità anziché per i soldi, ma in questa società tu cosa faresti? Beh, riflette un attimo, io continuerei a portare la luce. No, bello mio, mi sembra che il panorama che descrivi sia abbastanza luminoso di suo. Mi sa che rimarrai disoccupato, eh? Mi alzai, comprendendo che la serata era terminata e decidendo in un istante di mettere in atto la mia strategia di seduzione. Volevo baciarlo a tutti i costi. Salii in piedi sul divano, gli buttai le braccia al collo e mi appesi a lui, rimanendo con le gambe sospese nel vuoto. Come un lampo incollai le mie labbra alle sue senza lasciargli possibilità di reagire. E, miracolo, fece qualche passo indietro e strinse le sue braccia intorno alla mia vita, sostenendomi, prima timidamente, poi con sempre più trasporto, trascinandomi in un oceano di calore e stordimento mai provato prima. Ero pazza di gioia. Allacciai le gambe intorno alla sua vita, perché le mie braccia non mi sostenevano più, e lo abbracciai sempre più forte, mentre sentivo scendere lacrime dai miei occhi. Lui tornò verso il divano, mi depose delicatamente, come una principessa delle fiabe, e mentre già pregustavo di guardarlo sfilarsi sensualmente la camicia, sparì, lasciando solo una nuvoletta di zolfo al suo posto.